Easy Pop è lieta di presentarvi la nuova rubrica Le interviste di Easy Pop, un programma ideato e a cura di Franco Paoletti con la regia del Bolognese Volante. Intervista numero 11. Franco Paoletti intervista Alberto Bertoli. E nel salotto della nostra trasmissione, il LOF ovviamente di Radio Città Fujiko, c'è appunto con noi, come già annunciato, Alberto Bertoli. Quindi io prendo proprio dall'enciclopedia dei cantautori e delle cantautrici del nuovo dizionario, appunto, che è uscito da poco, e poi e quindi diamo un'occhiata proprio a chi è, soprattutto per le nuove generazioni, chi è Alberto Bertoli. È il tetragenito del cantautore Pierangelo Bertoli, il grande cantautore degli anni 70-80. Ciao Alberto, ben arrivato. Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Non ti nascondo che sono emozionato nel parlare con te, anche se siamo a pochi chilometri di distanza da dove abiti. Siamo qui per presentare soprattutto il tuo nuovo singolo che è in promozione in questo momento e che praticamente ricorda tuo padre. Allora, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, guarda, allora il singolo si chiama Pescatore ed è una versione molto particolare perché è il successo di mio padre del 1981, però invece di essere cantato con Fiorella Mannoia, lui fa la parte della donna in terza persona. Quindi è veramente molto particolare come duetto, perché io faccio la sua parte e lui sembra, insomma, che fosse studiato. In effetti invece è stata una cosa casuale, perché lui in una sola raccolta dove ricantò i suoi brani fece questa versione, ecco, e io l'ho presa e l'ho riadattata per fare un duetto con lui. Ecco, Alberto Bertoli è praticamente è giovanissimo, tu eri piccolissimo quando questa canzone appunto si radiava, praticamente fu un hit radiofonico e non solo. Io ero quasi appena nato, perché sono dell'80 e quindi avevo neanche un anno, ecco, era la primavera, avevo qualche mese. Infatti, e questo pezzo portò poi al successo definitivo Fiorella Mannoia, da quanto io ricordo. Esatto. Senti, ma gli inizi invece tuoi come autore e anche soprattutto come cantante, poi in realtà risalgono insomma alla tua adolescenza, se non dico male. Sì, io ho iniziato a suonare veramente da giovane, molto da ragazzino, insomma, a scrivere anche, e iniziai come autore di mio padre, perché lui mi diceva: tu sento che scrivi delle canzoni. Iniziai invece a fare dei tour nazionali, quindi a fare dei concerti in modo professionale nel 2003, e è un bel po' che sono in giro. Cioè, lo sappiamo anche perché abbiamo più volte ti abbiamo ascoltato all'interno appunto della nostra emittente. Senti, però sembra strano che tu praticamente in tutti questi anni non abbia mai poi fatto qualcosa insieme a tuo padre. No, ma infatti io ho cercato di fare questo album qui perché avevo bisogno di tornare sul palco con lui. Io ho fatto dei tournée con lui, sì. Poche, perché ero proprio molto giovane, e lui purtroppo è morto che io avevo 22 anni, quindi abbiamo fatto poco in tempo, ecco. Sì. E questo album è fatto apposta, nel senso che volevo proprio che ci fosse una sorta di rientro all'interno della mia vita, insomma, perché oltre a mancarmi come persona, mi manca come artista e come anche guida, e ritrovarlo all'interno delle canzoni dove cantiamo insieme mi fa emozionare quasi ogni volta, quindi è una cosa impressionante. Ecco, volevo dirti che appunto il disco che hai fatto uscire recentemente contiene anche l'inedita Star con te, che praticamente riassume proprio la filosofia appunto dei Bertoli. Come nasce questo pezzo invece, quest'altro pezzo che non è appunto già stato licenziato, quindi un inedito? Il pezzo nasce dal fatto che io stavo con una ragazza che vedeva una vita completamente diversa da come la vedevo io, perché, detta in due parole, io giravo con la maglietta di Che Guevara e lei era profondamente di destra, quindi mio padre mi disse: secondo me non durerà molto questa relazione, e io non la presi bene però. E quindi lui, per dirla bene dentro a un discorso, perché io non la volevo sentire, mi disse: ho sentito che c'è quella musica lì molto bella, me la dai che ci faccio un testo. Così mi sono praticamente condannato per il resto della mia vita ad avere una ramanzina di mio padre per sempre, però in modo poetico, dai, è molto bello. Ma sì, divertente. A proposito di di impegni, tuo padre era molto impegnato appunto nel mondo politico, ma anche nella canzone, tant'è vero che in questo album dentro ci sono proprio canzoni dance, no? Poi ci sono appunto anche i suoi successi più importanti, come Certi momenti, come tanti altri che io ricordo, anch'io ero piccolo, però sì, ci sono i successi clamorosi, no, di tuo padre. Io non ho capito una cosa però, ma li interpreti tutti o c'è solo questo inedito? No, no, li interpretiamo tutti insieme, in duetto, e tutti diciamo i suoi più grossi successi, perché c'è Spuntarono dal monte pure Soffia, Muso duro, quindi voglio dire, sono Italia d'oro, ci sono proprio tutte le canzoni che hanno fatto il repertorio, che se proprio devo dirla tutta, ultimamente le cose sono così, cioè i ragazzi che fanno il mio mestiere e iniziano adesso sono in pericolo, perché il mio repertorio, il repertorio della Bottega Bertoli è immortale. Adesso per fare una canzone che rimanga è veramente complicato. È abbastanza semplice, perché se ti dico 2 anni fa qual era la canzone che si sentiva più spesso in radio, non lo sai dire neanche tu che fai radio. Perché la velocità e la quantità di canzoni che vengono pubblicate sono tantissime. E quindi adesso per fare una canzone che rimanga si è in difficoltà. Concordo con te. E tra l'altro, vabbè, qui si potrebbe poi aprire delle polemiche ed altro, ma mi fermo qui. Invece tu sei anche, diciamo, uno tra gli organizzatori del premio per Angelo Bertoli, che mi sembra, insomma, un'altra cosa a sé stante, però molto molto importante nel panorama appunto discografico italiano. Ce ne vuoi parlare? Sì, io sono il direttore artistico, che è anche il garante, nel senso che abbiamo un certo tipo di mentalità su questo premio, che è il premio Pierangelo Bertoli, che cerca di tutelare le persone che fanno musica di spessore e che cercano un circuito che può anche non essere quello classico, e quindi non si affida magari al solito talent, ecco. Però magari invece preferisce cercare un pubblico con il quale avere a che fare e relazionarsi in modo più profondo. Quindi noi abbiamo un premio che si dipana durante tutto l'anno, e poi ci sono 3 fasi fondamentali, che sono, vabbè, la selezione primaria, che c'è una diciamo ci sono tante persone che mandano la loro iscrizione, noi da lì decidiamo una rosa tra i 24 e i 26 candidati, fanno una semifinale live, dove si esibiscono live, e i vincitori, gli 8 vincitori vanno alla finale, che sono 2 giorni, le finali sono il 4 e 5 di novembre. E nella serata conclusiva noi ci proponiamo di dare un palco a questa gente e a questi cantautori, ma un palco importante. Perché? Perché abbiamo anche 4 diversi premiati, quindi quattro grandi artisti nazionali con le quali ci si alterna sul palco, e loro quindi avranno un pubblico molto attento e avranno anche a confrontarsi con questi grandi cantautori, quindi diciamo che è un po' una prova del fuoco, lì puoi capire bene se è il tuo mestiere o no. Perfetto, tu hai duettato con Paola Tucci, con i Nobody stessi, con Luca Carboni, insomma, quali emozioni ti hanno dato ed è lì che hai capito che quella era la tua strada oppure no? Raccontaci qualcosa. Ma guarda, io sì, ho avuto molte collaborazioni, mi fa molto piacere quando qualcuno vuole collaborare con me, perché penso che la musica si faccia insieme e confrontarsi con realtà e artisti differenti ti fa sempre crescere, impari sempre qualcosa. Quindi io sono molto contento di questo, ma sono contento anche della stima che fortunatamente ho incontrato nella mia carriera, e quindi con questi mostri sacri della canzone che come ad esempio Luciano Ligabue che mi ha scritto una canzone e ha duettato con me, quindi queste sono dei momenti in cui ti rendi conto che non è casuale, ecco, non, forse insomma, vale qualcosa, ecco. Okay. E quindi è una cosa molto bella perché è il tuo mondo, capito? Ho capito. Senti, tu faresti un Sanremo oppure no? Sì, ma perché no? Guarda, il problema di Sanremo non è tanto che la gente, insomma, il problema di Sanremo è andare a avere il pubblico con più persone, quindi è una cosa buonissima, capito? Non ci vedo niente di male. Un conto è Sanremo, un'altra cosa invece sono appunto reality o altre cose che forse con la musica c'entrano fino a un certo punto, però io non escludo niente, nel senso che mi sembra che le cose possano andare bene se uno si diverte sempre, se uno si diverte mantiene la propria dignità, ecco. Certo, sono perfettamente d'accordo. Senti, io so anche che c'è un DVD dove praticamente c'è il meglio, insomma, della Bottega Bertoli, diciamo così. Sì, avevo fatto un DVD per i 10 anni, sì. i 10 anni della scomparsa, della morte di mio padre. E anche lì avevamo annoverato diversi artisti, tra cui Ruggeri, Danilo Sacco, insomma, gente che era capace di fare le canzoni di mio padre con un sentimento particolare, con delle fondamenta, ecco. Ho capito male oppure addirittura ti sei dato un po' ai musical? No, io sono partito, quando ero giovane ho fatto un paio di musical che tra l'altro mi sono piaciuti molto, mi ero divertito tanto, però sì, non ne ho più fatti altri successivamente, quindi è una cosa che è rimasta lì, ma è un'esperienza che consiglio, nel senso che credo che appunto per il discorso di prima dove si fa la musica insieme è una cosa che ti fa crescere e ti fa rispettare anche gli altri. Ok, quindi abbiamo capito che come scuola potrebbe appunto aiutare, ma tu che hai toccato con mano la discografia per esempio di tuo padre che è immensa e che incideva per delle major, ad adesso che bisogna fare tutto da solo, insomma, con le piccole etichette, con gli indipendenti, non c'è una via di mezzo, tu come la vedi, che hai toccato con mano un mondo e ne stai così toccando, percependo un altro? Ma guarda, il mondo cambia, capito? Cambia ogni giorno. Uno deve cercare di vivere il proprio tempo. Non penso che appellarsi a quello che è successo ti possa fare crescere. Io credo che si debba cercare una propria strada. Non ci sono più le vie convenzionali. Quindi quando uno sente che la strada è quella giusta, la deve percorrere con tutto se stesso e crederci fino in fondo. È l'unico modo per ottenere veramente qualcosa. Ecco, tu cosa pensi adesso della canzone d'autore appunto di quel mondo che è, non lo so, che interpretava Gino Paoli o tanti altri cantautori ad oggi, no? Dicevamo prima che oggi si usa molto rapidamente si usura una canzone. Tu credi che il pubblico è lo stesso pubblico che vuole questo oppure no? No, il pubblico non lo vuole, perché il pubblico si vuole affezionare, devi lasciargli il tempo di farlo e costruire delle canzoni che abbiano la possibilità di rimanere nel cuore delle persone. È ovvio che se uno scrive sempre delle sciocchezze, allora diventa difficile, capito, che ti ricordino, a meno che tu non scriva la Zebra Poà, perché diventa un tormentone. Ma il tormentone non è una canzone che rimane perché ha un concetto. Perché all'interno ci sono dei sentimenti, rimane perché diventa ipnotica. Quindi io credo che il pubblico non sia tutt'altro che stupido. E noi siamo tenuti, secondo me, a fare comunque canzoni con il più grosso spessore che riusciamo a fare. Questa è la maniera che io ritengo sia giusta per andare avanti. Ho capito. Senti, però a volte appunto essere figlio d'arte è sempre pesante, no? Perché devi anche, diciamo, devi essere all'altezza del padre. Non so, sto pensando per esempio a De André Junior oppure ad Angelina Mango, ad altri, insomma, figli d'arte che intraprendono la stessa opera del padre, poi dopo lo stesso mestiere del padre e poi dopo insomma fanno poi devono percorrere un loro percorso, a volte bene, a volte male. Per esempio tu hai inciso proprio 4-5 album da solista, se non sbaglio, però che strada pensi di aver intrapreso rispetto a tuo padre? Cioè facciamo questo parallelismo. Non capisco bene, cioè, cosa mi stai dicendo. Nel senso, per esempio, tuo padre ha inciso veramente tantissimi album, tanti che sono ormai diventati un classico della canzone italiana. Tu invece hai iniziato nel 2010, quanti album hai fatto? No, sì, guarda, ho capito adesso. Cioè, allora, è come ti dicevo prima, ognuno è figlio del suo tempo. Una volta si faceva un album più o meno all'anno, adesso sì. Non è pensabile. Perché in realtà, giusto per il numero di canzoni che vengono proposte, se tu ti proponi continuamente con pezzi nuovi, finisci che diventi ridondante e non ti ascoltano più. Quindi è meglio centellinare un pochino gli impegni discografici e uscire con delle cose che ne valga davvero la pena. Fare un disco con, non so, quello che una volta si chiamavano i riempitivi, le 4-5 canzoni che praticamente non ascolta nessuno, non ha senso adesso, anche perché se trovi un pubblico che ti ascolta tutto un album, sei fortunatissimo. Mm-hmm. Quindi le canzoni, secondo me, adesso devono essere tutte molto belle, okay. Se no non si arriva da nessuna parte. E da qui appunto, ecco perché escono gli EP e non più i CD come una volta. Ah, certo. Ho capito. Senti, e invece con la tecnologia che rapporti hai? Buoni, mi piace la tecnologia, ti aiuta molto, ti fa fare meno fatica, quindi è tutta una cosa molto bella. Non bisogna abusarne, credo. Però ieri in sala di incisione a registrare una voce, perché ho fatto una collaborazione con una band, si chiamano D'altro Canto, e nel giro di un'ora abbiamo registrato una voce perfetta. Se penso a quello che succedeva a mio padre, per registrare una canzone ci volevano 2 giorni. Mm-hmm. Solo per la voce, hai capito? Sì, sì. La cosa è molto cambiata, è molto migliorata ed è meno faticoso. Quello che però non penso che sia giusto fare è alterarle le voci completamente, metterci tutte perfette, poi dopo uno viene a un tuo concerto e sente che non sei perfetto, perché nessuno è perfetto. Quindi, cioè, voglio dire, il maquillage bene, ma fino a un certo punto. Sì, e quindi anche una stoccatina all'autotune. Senti, io so che sei in tournée in questo momento, vero? Ci vuoi parlare, sì, appunto di questo recital che stai portando in giro per l'Italia? In realtà io sto facendo una doppia tournée. Adesso abbiamo un'ultima data in teatro, che è verso la fine di maggio, purtroppo non ho il calendario, non me lo ricordo. intanto sto facendo anche il tour estivo, che ha invece un imprinting molto più rock e più da piazza. Quindi ieri e domani, scusami, suoniamo nelle piazze con uno spettacolo più dritto, più festoso, mentre quello dei teatri ricalca esattamente il CD che ho appena fatto, l'LP che abbiamo fatto in duetto, e quindi mi porto dietro anche la voce di mio padre. Ecco, beh, prima di lasciarti ai tuoi impegni, perché so che sei presissimo, ti sei reso conto di quanto amato sia tuo padre ancora adesso? È incredibile perché sono passati 21 anni dalla sua morte e ancora la gente non è che gli vuole bene, lo ama spassionatamente e il fatto di rivederlo in me è una cosa che mi fa veramente molto piacere, mi fa sentire molto bene, a discapito di quello che dicevi prima, Sì. perché c'è la gente che ti addita e dice le cazzate che dice poi certa gente, no? Ma voglio dire, no, non è un problema quello, perché nella vita non si incontrano solo persone intelligenti. Il mondo è pieno, c'è posto per tutti. L'importante è fare il proprio lavoro, cercare di stare il meglio possibile e farlo con felicità, insomma. Perfetto. Allora senti, in bocca al lupo per tutte le tue programmazioni e per le tue tournée. Ti vedremo in Emilia ancora? Sì, quest'estate abbiamo diversi concerti in Emilia, quindi sicuramente a luglio ne facciamo diversi. Perfetto, allora ci diamo all'appuntamento a questi concerti. Franco Poletti ti ringrazia per la disponibilità, grazie di essere entrato nel mio salotto musicale e noi ci sentiamo presto. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, a presto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko da Alberto Bertoli. Easy Pop è il salotto musicale di Radio Città Fujiko, un programma di Franco Paoletti, in onda la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle 16 per ascoltare musica indipendente al 100%. Non ti perdere il nostro appuntamento.